due margherite e quattro stagioni. Sta cambiando, anche perché poi mi confermerà. Condor, hai organizzato la girata, adesso che ci sono le belle giornate ci sta, adesso la merita. Con l'accordatore il doppio.